Io ci credevo alle tue lacrime, io ci credevo alle tue favole, io ci credevo alla tua immagine confusa, agli specchi in cui sceglievi le tue facce. Io ci credevo in quelle sabbie, giorni immensi a pettinare le tue spiagge. Non ho preteso mai risposte, una scusa, un pretesto per sentirmi meno fragile. Io ci credevo in quelle nuvole, non ho mai chiesto un cielo soffice. Io ci credevo alla tua notte mai sicura, ci cadevo volentieri nelle trappole. Io ci credevo alle tue lucciole, così ho smento una ad una le mie fiaccole. Soffia il vento e fin dove porterà questo silenzio che non sa quale sogno sia realtà dipingere. Si aprirà, sia menzogna o verità, per noi sarà difficile, difficile non creder mai. A quelle vele che tu scioglierai, verso l'inferno delle anime sperdute, richiamo di un vascello che non salterà, e tutto il resto è solitudine.